Ho sempre sognato di vivere al mare, camminare scalza, dimenticando le ciabatte sulla spiaggia ogni volta. Eppure, nel corso degli anni, ho seguito le regole che la società mi ha imposto. Studiare per avere in mano una laurea, cercare un lavoro, cercare casa, cercare un uomo per tutta la vita. Ho tessuto le mie catene per anni, accettando i compromessi che nascono in una relazione di coppia. Resistere ai primi urli di quando la nostra dolce metà ci dice che siamo delle persone inutili, che non sappiamo fare nulla e che, soprattutto, è colpa nostra se lui ha rotto il vetro della porta di casa e che dobbiamo essergli grate perché la violenza non la rivolge contro di noi. E poi, un giorno d'estate, con la luna piena che faceva brillare le montagne meravigliose tutto attorno, non è stato il vetro della porta di casa, ma la mia faccia a rompersi. È stato allora che ho deciso di scappare, affinché questo non fosse il mio futuro nei secoli dei secoli. Questi sono i mille passi, uno sceneggiato liberamente ispirato alla vita reale. Dalle pagine dei diari che ho ritrovato qui, in una valigia a fiori sulla costa dell'Oceano Pacifico. Io sono Alice Bettolo e ti accompagnerò in questo viaggio attraverso le storie di Morgana, italiana di origine, cittadina del mondo per scelta. È sta cena, no? Sono in campo. Come si chiama? Il baile della Ada de Azúcar. Ah, di Tchaikovsky.